Giustamente, tornando in diretta per il Breakfast Club, mi ricorda Dino che oggi è anche San Francesco d'Assisi, è patrono d'Italia, grazie, che dimenticanza, è importante, eh? Il protettore, pensate, di commercianti, cordai, ecologi, floricoltori, mercanti, tappezzieri e poeti. Ecco, così abbiamo dato anche un quadro completo per quanto riguarda la geografia attuale di 4 ottobre, venerdì. Sono le 7:46 minuti, la mia voce è un po' traballante in seguito al maltempo, quindi ho chiamato rinforzi, ho visto bene di portare tutta la redazione culturale in diretta questa mattina. Intanto do il buongiorno per la prima volta in diretta a Denise Del Dotto. Buongiorno Denise. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno. E ovviamente alla nostra esperta di approfondimenti per quanto riguarda l'Asia, Anna Cesari. Certo. Buongiorno. Ho già preso il biglietto per l'Asia. L'Asia in generale. In generale. In generale. Il continente. Sì, abbiamo parlato di Cina, abbiamo parlato di Cambogia. No, oggi infatti daremo ulteriore approfondimento e a tale proposito mando un audio da là. È ovvio. E do il buongiorno a Giuditta. Buongiorno Giuditta. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti voi. Grazie per questa levataccia, del resto come hai visto ho chiamato rinforzi perché oggi abbiamo veramente tanti motivi di approfondimento. Questo approfondimento arriva grazie a un suggerimento di Alessandro Tampieri, che salutiamo, e per quanto riguarda invece quello che è stato nel giovedì e nel venerdì, cioè questa sera, sono appuntamenti per cui, anche se a porte chiuse, mi hai anticipato Giuditta, già hanno preso il via. Ci puoi dire qualcosa di più? Assolutamente sì. Allora, infatti ringrazio Alessandro, con cui collaboro con grande piacere da molti anni, e invece nella mia altra veste, all'interno di Associazione Jaya, che attiva Bologna dal 2012 con tante proposte che riguardano anche l'Asia, non soltanto, abbiamo il grandissimo piacere di avere ospite qua a Bologna ancora una volta, è l'ennesima volta dal 2016, Apurva Jayaraman, che è una grandissima artista indiana, una danzatrice e una coreografa di uno stile particolare di teatro danza che si chiama Bharatanatyam. Lei sarà con noi in spettacolo già da stasera, ma abbiamo iniziato ieri e l'altro ieri con un bellissimo appuntamento di ricerca pura, fondamentalmente, uno scambio di ricerca tra Apurva Jayaraman e la nostra italianissima Anna Albertarelli, anche lei coreografa, ricercatrice del movimento, tecniche somatiche, contact improvisation e molto altro. Bene, intanto io ti presento, già presentato la presenza di Anna Cesari qua in diretta con noi, cedo la parola appunto ad Anna per la prima domanda di approfondimento a tale proposito e motivi di incontro. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno Anna. Buongiorno, il progetto si chiama Between the Lines, cosa significa? Sì. Allora, Between the Lines naturalmente significa tra le righe. Tra le righe può voler dire tantissime cose ed è proprio quello a cui noi stiamo cercando di alludere. È un progetto che è nato diciamo tra me e Apurva, ma anche in seno all'Università di Bologna, con cui collaboro da tanti anni, proprio per questioni legate al teatro danza dell'India del Sud, e in particolare col professor Matteo Casari, teatri dell'Asia, e quindi siamo all'interno del dance o del dar, come si chiama adesso. Bene, a questo punto abbiamo diversi spazi che saranno occupati piacevolmente con questa espressione artistica. Hai in diretta anche Apurva? Apurva l'ho lasciata riposare perché siamo in un tour de force davvero impegnativo, per cui l'ho detto stamattina ci penso io. Allora, per quanto riguarda la relazione tra l'espressione artistica occidentale, già stiamo ascoltando sonorità, questa reiterazione ritmico e melodica che dà veramente una sensazione intensa sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista emotivo, e per quanto riguarda una convergenza e divergenza invece con quello che noi intendiamo per danza nel contemporaneo. Ci puoi dire qualcosa di più, Giuditta? Assolutamente sì, e proprio grazie anche a questo momento di pratica condivisa con Anna Albertarelli sono emerse tante tante cose, sono tematiche che mi interessano molto, interessano tantissimo anche a Apurva. Allora, chiaramente da un lato dall'Oriente noi abbiamo una tradizione apparentemente molto consolidata In realtà, come tutte le cose viste da vicino, ci sono tante piccole brecce, tante piccole crepettine dentro le quali si può entrare. Quindi quello che da qui può sembrare qualcosa di monolitico, qualcosa di dato, in realtà è estremamente vivo, estremamente anche vario, differente. E così come noi sappiamo molto bene essere la storia, diciamo, dell'arte performativa, teatrale o danzata in Italia. E già questi due elementi ci danno un po' la chiave di lettura. Il Bharatanatyam ci porta proprio questo: non si tratta di una danza, non si tratta di teatro, ma si tratta di un'arte più ampia che prevede assolutamente tutte le sfumature che sono comprese tra il teatro e la danza. È un'arte performativa estremamente versatile, estremamente polimorfa, è un linguaggio, si può utilizzare per narrare, allo stesso tempo possiede una sezione ritmica importante, una sezione appunto di movimento astratto davvero articolata, bellissima, complessa. Quindi ha questa grande ricchezza che si porta dentro, pur per noi di solito essendo catalogata come una danza. Di fatto si tratta letteralmente di un teatro danza, quindi attinge più a quello che poi è diventato nell'ambito del Novecento anche una modalità, uno sguardo proprio dell'Occidente. Ricordiamo che l'India è un subcontinente, è grandissima. Allora, tu hai citato la parte meridionale dell'India, ha una specificità particolare la zona geografica, perché magari nella parte, diciamo, occidentale, orientale, nella parte nord vi è un aspetto, non dico diverso, certamente con attinenze, ma magari con sfumature anche più o meno concrete diverse. In questo caso, perché la parte meridionale, Giuditta? Questa è una domanda molto interessante. Dunque, noi appunto, come dici tu, ci troviamo davanti a un subcontinente, quindi a una moltitudine di culture che noi chiamiamo indiana, ma di fatto sono tantissime culture differenti, davvero con caratteristiche straordinariamente diverse. Allora, una cosa che ha caratterizzato il Tamil Nadu, che è proprio lo stato meridionale dell'India da cui proviene questa danza, ed è, immaginatevi un pochettino la silhouette dell'India, è la parte che guarda verso lo Sri Lanka, è che essendo una delle parti più remote naturalmente, quindi più difficilmente raggiungibili anche dagli altri continenti tutto sommato, è rimasta abbastanza, come dire, enclave, abbastanza chiusa in se stessa per molti secoli, quindi anche le dominazioni straniere o comunque le migrazioni a volte di tipo coloniale, a volte no, che sono arrivate dall'alto, hanno fatto un pochino più fatica ad attecchire al sud, ci hanno messo di più. Quindi in qualche modo la tradizione del Bharatanatyam, tra tutte le varie bellissime tradizioni di arte performativa che punteggiano l'India, è una di quelle che è rimasta tutto sommato, uso un termine che farà inorridire gli antropologi e le antropologhe, un po' più pura. Diciamo così. Ma più inorridire, diciamo così, personalmente, contaminazione, perché la contaminazione prevede una parte impura, dalla parola stessa, e una parte pura. Io preferisco sempre intersezione culturale. Esatto. Contaminazione, esatto, prevede una parte impura da contaminare a qualcosa invece magari al quale, esatto, noi siamo più avvezzi e ci piace più giocare in casa, ecco. Esattamente. Quindi laggiù, diciamo, questa intersezione è arrivata più tardi, è arrivata naturalmente perché a un certo punto è arrivata, però è cominciata ad arrivare molto più tardi, per cui effettivamente questa forma d'arte, il Bharatanatyam, in qualche modo ha mantenuto una continuità più visibile rispetto al passato, mentre le arti del nord, che comunque sono splendide e diversissime, pur avendo tanti punti di contatto con il Bharatanatyam, sono state attraversate maggiormente e quindi si vede ad esempio una continuità più facile, più comprensibile con il Kathak, che è una danza classica del nord, e delle danze che sono assolutamente delle danze a noi più familiari, come il flamenco. Sì. Perché, come dire, c'è stata una continuità fisica, benché in grande lontananza, estremamente diversa e molto maggiore. E ultimo punto interessante, credo, visto che siamo in radio, questo si applica tantissimo anche al patrimonio musicale, non soltanto al patrimonio coreutico, ma infatti anche la musica che sentiamo di sottofondo attinge a quello che noi chiamiamo mondo, diciamo, della musica carnatica, sì, anziché alla musica hindustani, che per noi è forse un po' più nota, che è quella che infatti è arrivata prima in Occidente, anche grazie ai mitici viaggiatori degli anni 60 e 70, non da ultimi Beatles, che sono andati invece più a nord a intersecarsi con la cultura indiana. No, io ti ringrazio tantissimo perché da appassionato di jazz ho seguito diversi concerti con musicisti indiani. Chiaramente le scale sono completamente diverse, questo è un aspetto che voglio sottolineare, per cui mettersi assieme è un'ulteriore difficoltà pur restando col grande gusto, ma per quello che riguarda le zone di un immenso subcontinente, ascoltare un musicista, ricordo un grande contraltista che aveva una metrica di canto oltretutto decisamente diversa da un'altra autrice sempre presente nel Jazz Club di Ferrara qualche stagione fa, dico eppure è India, ma è, poi ho pensato, è talmente grande che è chiaro che ci sono, e adesso abbiamo fatto un po' chiarezza su tutto ciò. Anna, volevi aggiungere qualcosa? Volevo solo, no, in realtà è una mia curiosità che volevo esplicitare, se poi Giuditta vuole dire qualcosa, cioè che Apurva è, ha un dottorato di ricerca in astronomia e un master in fisica presso l'Università di Oxford, quindi a proposito di interdisciplinarietà direi che ci siamo. Ci siamo. Lo posso confermare, non tanto perché ho studiato con lei, quanto perché comunque vivo momenti intensissimi con lei da tanti anni e trovo in lei, nonostante poi lei abbia fatto una scelta, nel senso che lei avendo appunto questi PhD assolutamente molto illustri avrebbe potuto darsi alla carriera scientifica, dove era peraltro molto molto molto portata. A un certo punto della sua vita lei ha proprio fatto un bilanciamento e si è resa conto che benché amasse tantissimo la scienza e la ama tuttora e si vede anche nella sua danza, questa è una cosa interessante, e la applica anche alla sua danza, al suo modo di ricercare in maniera approfondita e implacabile. Lei è implacabile quando decide che vuole indagare su un tema, davvero mette tutta se stessa in questa indagine, e, però ha trovato una gioia, una fonte di gioia talmente profonda nella danza e nel teatro danza indiano, lo sottolineo, proprio per la sua completezza, che a un certo punto l'ago della bilancia è andato verso quest'altro mondo, che comunque lei continua assolutamente a intrecciare. Quindi appunto la sua visione, la sua visionarietà artistica si amalgamano perfettamente con la sua chiarezza di visione invece diciamo scientifica. Lo trovo molto bello. E per salutarci, se ci può ricordare gli appuntamenti. Con moltissimo piacere. Allora, questa sera, allora oggi, diciamo tra oggi, domani e dopodomani abbiamo il workshop, ma non oso proporvelo perché, come dire, è qualcosa di molto specifico, però sappiate che staremo battendo i piedini già da oggi pomeriggio in uno spazio molto bello che amo molto, dove lavoro da tanti anni, che ora ha preso una nuova veste, si chiamava Samà, uno spazio in via Zamboni 72, ora si chiamerà CRIV, Centro di Ricerca Voce, che anche quest'anno ci ha ospitati, non soltanto per il workshop che parte oggi e finirà domenica, ma anche per questo share training tra Apurva Jayaraman e Anna Albertarelli. Quindi ringrazio moltissimo la generosità del CRIV. E invece poi ci trasferiremo nello splendido oratorio di San Filippo Neri, quindi via Manzoni 5, pieno centro di Bologna, con il Festival Eccentriche, dove siamo state chiamate come ospiti con grandissima gioia. Questa sera si avvicenderanno tantissime donne o soggettività, diciamo, al femminile notevolissime, tra le quali Nadisha Uyangoda, giovane scrittrice italo-singalese, che ha richiesto la presenza di una danzatrice e fortuna ha voluto che Apurva fosse qua a Bologna. Quindi hanno creato una bellissima narrazione tra teatro danza e voce sulla dea Pattini, che è una dea dello Sri Lanka. Quindi questa sera ha ingresso gratuito, non è possibile prenotare, quindi bisogna recarsi lì. Eccentriche Festival via Manzoni 5 dalle ore 20:30, vi consiglio di arrivare però parecchio prima. Infine, e questi sono gli appuntamenti che ho curato personalmente in collaborazione con il DAR, quindi il Dipartimento delle Arti, saremo al Dance Lab, questa volta quindi via Azzo Gardino, specificamente piazzetta Pierpaolo Pasolini numero 3 di fronte alla Cineteca, con il famoso progetto e splendido spettacolo Between the Lines con Apurva Jayaraman, il 6 e il 7, quindi domenica e lunedì alle ore 20 prima, e in questo caso invece bisogna assolutamente prenotare, c'è un contributo che viene richiesto, che sarà di €15 per come biglietto intero o di 10 per gli studenti Unipo, per i soci Jaya. E per prenotare vi chiedo di scrivere, c'è ancora qualche posto in entrambe le serate, alla mail di Associazione Jaya, associazionejaya@gmail.com. E noi ti ringraziamo tantissimo per avere anche informazioni, magari ci puoi dare una possibilità sul web per avere più comodamente informazioni su questi appuntamenti, Giuditta? Assolutamente, potete andare sul sito associazionejaya.it oppure anche cercare Associazione Jaya su Instagram, Associazione Jaya, Jaya si scrive J-A-Y-A, e anche su Facebook siamo come Associazione Culturale Jaya oppure il mio profilo personale Jaya Giuditta De Concini. Grazie di cuore, buona giornata, buon venerdì, grazie. Buonissima giornata a voi, grazie. Ciao. Ecco, questa è un'intersezione musicale, sentite, fra l'elettronica, il drum and bass e la metrica di cui ha dato descrizione in precedenza Giuditta De Concini. Knitting Sony, il disco è Beyond Skin, Broken Skin, il brano che stiamo ascoltando. Allora, nel primo fly d'appuntamento che è arrivato, il titolo è Pattini ed è il nome di una divinità dello Sri Lanka, quindi una cosa estremamente spirituale e importante. Poi sai la mia capacità di avere subito curiosità per queste cose, però non lo sapevo e io pensavo che fosse qualcosa legato alla motilità su pattini a rotelle, giuro, i roller, sui roller. meno male che non ho fatto l'ennesima figura villata e mi sono morsicato la lingua, ho lasciato a te la parola, meno male. Tra pochissimo con Dennis Del Dotto avremo modo di conoscere una stagione nuova, è una stagione nuova con Agora. E sapete bene quanto il Breakfast Club sia legato a questo cartellone che mette insieme diversi palcoscenici, tutti nella nostra bellissima pianura a cura del dell'Unione Reno Galliera, quindi diversi comuni come Pieve di Cento, come vi viene in mente Castel d'Argile, beh, tanto li conoscete, li presentiamo spesso, quindi a memoria non ve li posso citare uno dietro l'altro, però avremo modo di conoscere fili conduttori, specificità della stagione 2024-2025 con Agora. A tra poco.